as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi 10 marzo la puntata non poteva che non essere dedicata allo sciopero generale dei sindacati di base e non solo, questa volta, poi ne parleremo nella puntata in maniera specifica. Sciopero transfemminista del 9 marzo di ieri c'è stato in tutta Italia, da quello che mi risulta anche in tanti luoghi d'Europa, ma Bologna nel pomeriggio si è svolta una manifestazione. Siamo andati, io ho scioperato la mattina, siamo andati diversi anche operai della FIOM, eravamo insieme ai nostri funzionari, e c'è stata una bellissima manifestazione. Per me erano più di 10.000, molti di più, però comunque era una bella manifestazione, colorata, rumorosa, con slogan, veramente combattiva, come ultimamente le manifestazioni dell'8 marzo a Bologna sono ogni anno. Anche l'anno scorso c'è stata una bellissima manifestazione, quest'anno però c'era, mi sembrava che c'era gente, c'erano tanti lavoratori oltre tantissimi studenti, e è stata veramente una bella manifestazione. L'8 marzo ci sono svolte alcune iniziative in piazza, c'è stata la sfamiglia, è una cosa molto carina che si è svolta in Piazza Maggiore, ma quest'anno il 9 marzo è stata la giornata clou. Diverse iniziative sono partite anche dalla zona universitaria, alcuni cortei sono visti, sono partiti da alcune zone di Bologna. Piazza Maggiore, concentramento alle 4:30, verso le 6 siamo partiti. Ora io vi lascio al pezzo introduttivo che a me piace tantissimo. Poi abbiamo intervistato 3 compagne, la prima una compagna della Filcams, della CGL, che ha scioperato, sentiremo le sue parole, amen. Poi abbiamo sentito una studentessa, una compagna del PCR, e poi abbiamo sentito Eleonora, la mia paesana, che fa parte del coordinamento donne migranti di Bologna e anche di Connessioni Precarie, è una compagna insomma che ci spiegherà dal suo punto di vista e delle compagne del coordinamento donne migranti di Bologna cos'è per loro l'8 marzo. Ecco, ascoltiamo questo pezzo e ci sentiamo per le conclusioni alla fine. Respectful. All my life, I nearly try to stay. You were right, love takes time. Hey, hey. Allora, siamo qui in piazza, oggi 9 marzo, sciopero transfemminista, abbiamo qua una compagna della CGIL, ci siete anche voi, spiegateci un po' come si è mossa la CGIL, quello che è successo nella giornata di oggi. Sì, ciao, grazie. Allora, io sono Daniela Dessì e sono funzionaria per la FILCAM CGIL, la categoria che segue ristorazione, turismo, i servizi, e contiamo 17.000 iscritti, fra le quali la maggioranza sono donne. Quindi siamo qua per rivendicare una parità salariale che è ancora lontanissima, per contrastare le innumerevoli molestie nei luoghi di lavoro, per ribadire che ci deve essere una parità reale e non solo enunciata. E quindi oggi, se non possiamo far valere la nostra voce, faremo valere la nostra assenza. E quindi abbiamo proclamato lo sciopero generale, abbiamo incrociato le braccia, sfiliamo insieme a non una di meno. Questa mattina abbiamo fatto un presidio davanti all'Eurospin insieme alle compagne lavoratrici e ci siamo caratterizzate con i panuelas fucsia dell'Argentina per le donne maltrattate, perché comunque la disparità salariale spesso genera anche una non sufficienza e una dipendenza che genera, insomma, che causa violenze anche nell'ambito familiare, per non essere libere dal punto di vista economico. Tu sei responsabile sulle parità di genere, vero, della FILCAMS, quello che mi risulta? Sì, io ricopro il ruolo di responsabile delle politiche di genere e nuovi diritti, e pertanto in queste cose ci credo totalmente e fermamente. Una cosa veramente, quest'anno è stato veramente bello, perché in passato spesso non si riusciva a organizzare uno sciopero tutti quanti insieme. Quest'anno penso che sia stato il primo anno in cui non capita l'8 marzo, perché è solo di domenica. È una cosa importante. Noi come radio sono da tanto che lo chiediamo, che tutti facciano sciopero insieme, ci siamo riusciti. Sì, ci siamo riuscite finalmente dopo anni. Io sono 10 anni che sto in CGIL e sono 10 anni che ogni anno chiedevo fosse proclamato lo sciopero, perché anche se sappiamo benissimo che si lascia sul piattino una parte di salario, è importante esserci, coprire noi le nostre lavoratrici, perché alla fin fine ci sono sempre hanno sempre scioperato con la copertura dei sindacati di base, come se noi non fossimo favorevoli a questo incrociare le braccia, e invece lo siamo, e oggi, cioè, questo sciopero è il primo, quindi sarà anche da oggi in poi la Filcam sciopererà tutti gli 8 marzo da qui ad, alla fine del mondo. Il 14 marzo ci sarà una grande manifestazione qui a Bologna contro la guerra, da quello che mi risulta a me. Sì, assolutamente sì, continuiamo a manifestare anche per una pace che sta precipitando, non si fa fatica a parlare di pace in questo momento terribile. Okay. Grazie mille, ciao. Ecco qua, invece adesso siamo stati prima la sindacalista, oggi abbiamo la studentessa universitaria, sì. Anna, insomma, come avete vissuto l'8 marzo e il 9 marzo? Siete oggi qui in piazza, avete visto che avete manifestato? Sì, beh, sono state giornate importanti, intense anche, con grossa partecipazione, più il lunedì che la domenica sicuramente. Io faccio parte del Partito Comunista Rivoluzionario, quindi abbiamo fatto diffusione sia del nostro giornale Rivoluzione, sia la domenica che nella giornata di lunedì. E anche la diffusione è andata molto bene, diciamo che ovviamente il nostro obiettivo in quanto partito è proprio sottolineare l'interconnessione cruciale che c'è tra la lotta contro il patriarcato e per l'emancipazione femminile e quella della la lotta della classe proletaria e dell'abbattimento del capitalismo. Dunque praticamente non semplice femminismo piccolo borghese, esatto. Ma rivoluzionario. Rivoluzionario in tutti i sensi, rivoluzionario partendo proprio dalle radici che hanno portato all'oppressione femminile, che sono radici materiali e che in un libro, se mi posso permettere, certo, di consigliarlo, L'origine della famiglia. Che ho letto tante volte. L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato di Engels. Viene spiegato proprio questo, esatto. Grazie mille, Anna. Allora, siamo qui con la compagna, poi ti presenterai, di Connessioni Precarie, anche del Coordinamento di Donne Migranti di Bologna. Oggi, l'8 marzo, voi siete sempre stati in piazza, avete sempre scioperato. Oggi, 9 marzo, giornata diversa dall'8 marzo, però c'è stato lo sciopero. Ci sono un sacco di lavoratrici, di lavoratori. Oggi in piazza, un sacco di studenti. L'8 marzo per voi del coordinamento Migranti Donne. Allora, oggi è una giornata in cui abbiamo voluto affermare un'urgenza, ovvero quella della lotta contro la violenza patriarcale, che è anche violenza razzista, le due cose sono strettamente connesse, in un contesto di guerra, quindi abbiamo fatto uno striscione in cui diciamo contro la guerra, la violenza patriarcale e razzista, perché appunto la guerra sta rendendo le condizioni di vita di tutte e tutti più complicate, specialmente per le donne. E ovviamente siamo qui anche contro la guerra in Palestina, che sta continuando nonostante il World of Peace, in Iran, tutta la catastrofe umanitaria che sta accadendo in queste ore. E ovviamente anche siamo a fianco alle donne in Rojava. Però sappiamo che la guerra non colpisce soltanto dove è combattuta, ma sta peggiorando le condizioni di vita, di lavoro per noi anche qua in Italia e fuori dal conflitto. Ad esempio con una serie di misure del governo, come la mancata approvazione del congedo parentale per gli uomini, oppure il DL Consenso, per cui ci sono state delle manifestazioni anche con i centri antiviolenza, che vuole appunto a capovolto dal dover dimostrare il consenso al dissenso per poter diciamo incriminare qualcuno di stupro. Quindi è una guerra che si sta facendo contro le donne in questo momento, specialmente le donne migranti, che in un quadro in cui si sta restringendo il diritto di asilo e il lavoro domestico di cura è ancora più sommerso. Sono state fatte delle quote speciali per coloro, per chi viene in Italia a lavorare e avere cura degli anziani e dei bambini. E tutto questo vuol dire far ricadere sul lavoro delle donne migranti con salari bassissimi, i tagli al welfare che sono costanti da vari anni in Italia e che sono aumentati con le spese di guerra. Quindi oggi in piazza siamo insieme a una serie di figure, appunto delle insegnanti che stanno protestando contro una riforma della scuola che vuole costringere tutti e tutti al silenzio, con le lavoratrici dei servizi,

ci sono stati sindacati di base, così come nella mia, che hanno fatto la copertura per chi voleva scioperare, quindi non c'è stato bisogno della FIOM di proclamare lo sciopero. Avete sentito la compagna di Connessione Precari come ha parlato? Io sono completamente d'accordo con lei per quando lei afferma che la guerra peggiora le condizioni delle donne, peggiora le condizioni dei lavoratori, e le donne come lavoratori sono quelle più sfruttate, quelle che hanno salari più bassi, e questo significa per loro una condizione ancora peggiore di quelle di prima. Ecco perché lo dico subito, il 14 marzo ci sarà un'importante manifestazione a Bologna, da Bologna è partito questo appello, No Kings, 14 marzo questa bellissima manifestazione, noi come Metalmeccanici ci incontreremo il 17, perché il 28 marzo ci sarà una grande manifestazione a Bologna, io lo dico subito, secondo me serve uno sciopero generale contro la guerra, però torniamo al 9 marzo. Ora, io sono molto d'accordo con la compagna studentessa quando ci dice che insomma bisogna cambiare le condizioni economiche e sociali, il sistema, per poter far sì che non ci sia più il patriarcato, che non ci siano più le violenze sulle donne, che non ci siano più donne sfruttate, se si vuole arrivare alla parità salariale. È vero, oggi il capitalismo crea questa situazione, non è solo la questione culturale, non è solo la questione educativa, che comunque ha la sua importanza certamente, però esiste anche le condizioni economiche e materiali delle persone. Un mondo in cui c'è la barbarie del capitalismo, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, si assiste matematicamente allo sfruttamento esagerato dell'uomo anche sulla donna, purtroppo questo accade. Noi ricordiamo la rivoluzione d'ottobre, sappiamo benissimo che è stato il più grande passo avanti delle donne nella storia dell'umanità. Ogni femminista dovrebbe studiare quello che è accaduto dopo la rivoluzione d'ottobre in Russia. Il grande passo avanti, fermato chiaramente poi da Stalin, il quale è tornato un po' indietro, ma quel passo avanti ha segnato per sempre la storia dei diritti delle donne. Certo, c'è avuto una rivoluzione. Io penso che serva ancora una rivoluzione, chiaramente può essere anche culturale, ma deve essere anche economica, un cambio radicale della società. Si possono sconfiggere le discriminazioni, i fascismi che sono sempre contro le donne, attraverso un cambiamento radicale della società, attraverso una forza di classe lavoratrice che impone alla società il punto di vista dei lavoratori. E nel punto di vista dei lavoratori c'è tutta la questione dei diritti delle donne che sono una priorità. I diritti delle donne non sono semplici diritti individuali, se uno li guarda così non li va da nessuna parte. I diritti delle donne a una parità di salario, a non essere sfruttate, a non essere stuprate, a tutto quello che noi da tanto tempo chiediamo, passa sempre e comunque dai diritti sociali. Devono rientrare nell'alveo dei diritti sociali più che dei diritti individuali. I diritti individuali spesso sono i diritti di piccolo borghesi, sono diritti che sono all'interno della sfera privata delle persone. Una persona molto ricca si può permettere tranquillamente di divorziare, si può permettere tranquillamente di vivere all'estero, di avere più figli senza nemmeno un partner. È molto più difficile per una lavoratrice che ha perso il lavoro, una lavoratrice che è rimasta sola con tanti figli, una lavoratrice che ha un basso salario. Ecco, i diritti sociali sono importanti, sono fondamentali. La lotta per i diritti sociali, attraverso anche la rivoluzione per il cambiamento di questa società che impone invece tutto un altro tipo di diritti e interessi, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, in cui la guerra ad oggi è il primo vero interesse di tantissimi governi in questo mondo, e dunque tutti i diritti sociali vengono messi in secondo piano. Noi abbiamo bisogno veramente di cambiarla questa società, partendo da questo. Ecco perché l'8 marzo è una giornata importante, ma deve essere una giornata di lotta, una giornata di cambiamento radicale della società per poter finalmente avere una società più giusta che parte proprio dai diritti delle donne. Salve a tutti, vi saluto. ci sentiamo alla prossima puntata. Lavoro che già hanno portato anni, noi accettiamo. All'interesse militare dei lavoratori.